Benvenuti a tutti, puntata numero 1 di NBA Week. Da oggi iniziamo a fare sul serio qui su Radio Big World e proveremo a raccontarvi, entrando nel merito, la stagione NBA 2016-2017. Due piccole cose prima di iniziare. La prima, vi consiglio di dare un occhio a tutto il palinsesto di Radio Big World, perché ci sono un sacco di altri podcast molto molto interessanti che non trattano di sport, non trattano di pallacanestro, ma che meritano un'ascoltatina. La seconda è un ringraziamento all'utente Facebook e al canale YouTube Belli13, che vi invito rapidamente a seguire perché è indubbiamente il punto di riferimento per riuscire a seguire la stagione NBA in corso in maniera gratuita. Andate a dare un'occhiata, Belli13 ha deciso di appoggiare e di sostenere la nostra trasmissione, la mia trasmissione in realtà, per questo NBA Week la troverete anche sul canale YouTube Belli13. Benissimo, entriamo nel merito, ringraziamenti di rito, parliamo della prestazione della settimana. Prestazione della settimana che in realtà non è una prestazione, ma sono le medie statistiche di due giocatori che a mio avviso sono i due più probabili al momento concorrenti al titolo di MVP stagionale, il miglior giocatore della Lega. Uno è Russell Westbrook, l'altro è James Harden. Entrambi hanno in comune un passato, una finale NBA giocata nella stessa squadra di Oklahoma City Thunders, ai tempi con Kevin Durant, che come sapete benissimo è approdato a Golden State da questa stagione. Hanno in comune, oltre a questo, il fatto che entrambi si trovano a gestire e a avere una serie di responsabilità importanti in due roster non certo di primissimo livello. Entrambi stanno viaggiando a delle medie vicine alla tripla doppia. Russell Westbrook è con 31 punti per gara, 9,5 rimbalzi a partita e 10,6 assist, veramente a un pelo dal raggiungere la media del tripla doppia a partita. Sono proprio 9,5 rimbalzi, uno 0,5 rimbalzi statistico in più e Westbrook sarebbe già su questo traguardo quasi impossibile da immaginarsi. Harden non è tanto sotto a Westbrook, viaggia a 28 punti di media, 7,8 rimbalzi e 12,4 assist. Cosa dire di questi due giocatori? Brevemente, due statistiche, una per giocatore, sono a mio avviso incredibili. I 9,5 rimbalzi di Russell Westbrook, che comunque sarebbe la point guard di Oklahoma City Thunders, è alto 1,91 m, a mio avviso sono veramente pazzeschi. Che lui possa viaggiare a una media del genere e a raggiungere anche durante questa settimana, ad esempio contro i Brooklyn Nets ha fatto 11 rimbalzi, contro i Magic 12, insomma andare in doppia cifra così tranquillamente a rimbalzo è già abbastanza pazzesco. Ma la statistica ancora più pazzesca a mio avviso sono i 12,4 assist di James Harden. Prima cosa perché si tratta di una media degna di John Stockton, seconda cosa perché si deve trovare a passare la palla in un roster a mio avviso ai limiti dell'imbarazzante, dove anche un Clint Capela, che tecnicamente non vale una cippa da un punto di vista offensivo, riesce ad andare oltre quasi i 20 punti una volta ogni tanto, viste le ottime assistenze di Harden. Di questi due giocatori avremo modo di riparlarne e ne riparleremo sicuramente, principalmente perché quando a giugno si discuterà chi è stato l'MVP della stagione, io credo che uno dei due quantomeno ci sarà andato molto vicino. Giocatori da seguire veramente con la lente di ingrandimento. Oklahoma City non sta andando benissimo, il contraccolpo della perdita di Durant si sente. Houston invece sta viaggiando con il roster che ha, lo risottolineo perché a mio avviso è tristissimo a livello quasi di quello dei Brooklyn Nets, sta viaggiando a 9 vittorie e 5 sconfitte, quindi anche una media piuttosto dignitosa ad ovest. Proseguiamo velocemente la squadra della settimana, torniamo a parlare dei Golden State Warriors. Per quale ragione? Visto che li avevo già introdotti nella puntata 0. Semplicemente perché Golden State in questa settimana, in realtà partendo da domenica 13, si è giocato una serie di trasferte, particolarmente se è andata in trasferta ad est, e ha sempre vinto convincendo e trovando quegli equilibri che probabilmente necessitava, o perlomeno sembrava necessitasse dopo la sconfitta nell'Open Night contro i San Antonio Spurs e dopo un inizio non troppo brillante. I tre grandi, Curry, Durant e Klay Thompson, più o meno si dividono i tiri, si dividono le medie punti, segnano quasi 90 punti di media partita. Golden State è la squadra con la media punti segnata più alta dell'NBA, 117,1 punti a partita. Sono andati ad est questa settimana, hanno battuto Toronto e non era certo facile, hanno vinto agevolmente a Boston 104-88, poi hanno battuto i Milwaukee Bucks ed infine gli Indiana Pacers per 120-83. Qual è il tallone d'Achille in questo momento nei Golden State Warriors? Ovviamente i punti subiti. Sono la 15ª squadra dell'NBA, 103,6 punti subiti a partita. Hanno comunque un record di tutto rispetto, 12 vittorie e 2 sconfitte, secondi ad ovest soltanto Los Angeles Clippers, che però hanno giocato una partita in più e quindi hanno una vittoria in più, almeno in questo momento. Io vi parlo ed è mercoledì 23 novembre. Il problema difensivo di Golden State è effettivamente quello che balza più all'occhio, soprattutto perché manca probabilmente un centro intimidatore sotto canestro, un rim protector come si potrebbe dire, e l'arrivo di Zaza Pachulia al posto di Andrew Bogut probabilmente ha lasciato delle mancanze. Tanto che anche un noto analista NBA, ex giocatore dei Boston Celtic, analista dei Celtic come Brian Scalabrini, si è addentrato a fare una previsione pazzesca in questi giorni, quella per cui Golden State, per risolvere questo problema, starebbe cercando di cedere Klay Thompson, probabilmente proprio a Boston. Fantabasket puro, probabilmente, perché il povero Scalabrini si è preso una serie di infamate fuori di testa, tant'è che ha più o meno ritrattato, però ha lanciato tra virgolette un input. Chissà che Golden State non possa pensare di cedere la sua terza stella, realizzativamente parlando, almeno nell'ordine. Io personalmente mi augurerei di no, anche perché se Golden State è veramente una squadra con una missione, e la missione è quella di tornare a vincere il titolo NBA a giugno, fare senza Klay Thompson sarebbe un pochino difficile, anche con i dovuti limiti visibili da un punto di vista difensivo. Proseguiamo rapidamente e andiamo invece al partitone della settimana. Più che un partitone, io lo definirei la grande ladrata della settimana. Ed è una ladrata che si consuma a Sacramento, dove giocano domenica notte in Italia i poveri Toronto Raptors. Dico poveri perché? Perché Toronto arriva a 2 secondi dal termine della partita, per l'esattezza 2.4, a meno 3 con la palla in mano e la rimessa nella loro zona offensiva. Quindi siamo a 2.4, rimessa, palla nelle mani Terrence Ross, segna una tripla pazzesca da 8 metri, si va all'overtime. Festeggiamenti, abbracci, gioia dalla parte di Toronto, però gli arbitri hanno qualche dubbio e decidono di avvalersi dell'instant replay. L'instant replay cos'è? Per chi non lo sapesse, non è altro che quella moviolona in campo che tanto nel calcio italiano veniva auspicata dal nostro mitico Biscardi ai tempi del processo del lunedì. Gli arbitri vanno lì e si guardano l'ultima azione per valutare se il canestro è stato fatto in tempo utile o meno, cioè dentro i 2.4 secondi che mancavano alla fine della partita. Il canestro arriva in tempo utile, si può vedere dai replay, visto che le luci del tabellone si accendono comunque più tardi del rilascio della palla da parte di Ross. Ma i 3 punti non vengono però convalidati, questo perché? Perché a causa di un malfunzionamento del cronometro, chissà se errore umano o meno, il cronometro parte, e sarebbe dovuto partire, sul tocco che DeMarcus Cousins, il centro dei Sacramento Kings, fa sfiorando la rimessa battuta dai Raptors. Questo causa una discrepanza eventuale di tempo e, secondo la valutazione degli arbitri, questo avrebbe portato il tempo a scadenza ben prima che Ross mandasse la palla a bersaglio. Ovviamente questa decisione viene accettata in maniera incredibile e surreale da parte dei Toronto Raptors, che stavano lì festeggiando e preparandosi a giocare i supplementari, perché appunto era il tiro del pareggio. Incazzatura a mille, Dwayne Casey, coach di Toronto, che rischia un infarto. Potrete vedere questo video nel post che metteremo con tutti i video relativi a quello di cui stiamo parlando nel nostro blog su medium.com/NBA Week. E quindi la questione dell'instant replay e la questione della moviola in campo ritorna di stretta attualità. Chiaramente utilissima la tecnologia nello sport al 100%, però comunque la decisione finale viene presa da un essere umano, in questo caso dalla valutazione degli arbitri. A mio avviso gli arbitri, malgrado il replay, che ovviamente non è chiaro, non hanno la capacità di poter decidere se quel tocco, quella palla sfiorata di Cousins che avrebbe dovuto attivare il cronometro qualche centesimo o decimo di secondo prima di quando effettivamente si è attivato, può essere stata decisiva o meno, cioè può aver invalidato o meno il tiro di Ross. A mio avviso, io salomonicamente avrei convalidato il tiro, tanto che non determinava una sconfitta per la squadra di Asa, ma avrebbe determinato un tempo supplementare. Gli arbitri non sono stati di questo avviso, per buona pace di Aldone Biscardi e del moviolone in campo, che pure in America funziona benissimo, perché l'instant replay è una realtà nell'NBA oramai da tempo e viene utilizzato dagli arbitri partita dopo partita per molte volte. Per buona pace di Biscardi si torna lì, la tecnologia può essere infallibile, però comunque l'occhio umano o comunque il libero arbitrio e la decisione dell'essere umano non sempre è infallibile, anche in conseguenza alla tecnologia stessa. Chiudiamo qui la parte relativa alla settimana che è stata e andiamo alla rimembranza della settimana. Questa settimana, la prima puntata di NBA Week, ho deciso di portarvi al 7 giugno 1995, gara 1 di finale NBA tra Orlando Magic e Houston Rockets. Houston Rockets che arrivano a quella finale come sesta squadra classificata per i playoff ad Ovest. Hanno appena ingaggiato, perlomeno nella chiusura del mercato invernale, hanno ingaggiato a metà stagione Clyde Drexler dei Portland Trail Blazers. Sono squadra che non convince, ma che trova un equilibrio incredibile nei playoff, giunge in finale dopo aver battuto i San Antonio Spurs, che erano favoritissimi con l'MVP della stagione David Robinson. Orlando Magic, tutta un'altra storia. Prima squadra ad est a qualificarsi ai playoff, Shaquille O'Neal e Penny Hardaway nei loro primi anni di NBA fortissimi, futuribilissimi, con un supporting cast di livello dove ci sono Dennis Scott, Brian Shaw, dove c'è l'esperienza di Horace Grant proveniente dai Bulls del primo tripit, dove c'è Nick Anderson. Nick the Brick è lui il protagonista della nostra rimembranza, è lui che deciderà indirettamente questa partita che segnerà la sua carriera e probabilmente anche la sua vita professionale in seguito. Questa partita bellissima potrete vederla tutta nel nostro blog medium/NBA Week, dove metterò un link appunto alla partita intera perché merita davvero di essere vista. Partita punto a punto, Orlando in realtà parte benissimo, va in vantaggio, Kenny Smith, oggi analista per NBA TV e per ESPN, segna 7 triple e riporta in equilibrio il match. Si arriva a poco meno di 10 secondi dalla fine e ci sono 2 tiri liberi per gli Orlando Magic, quindi Orlando Magic ha più 3 in quel momento. Nick Anderson se ne va in lunetta, ha giocato una partita piuttosto positiva con 22 punti e 4 triple, terzo realizzatore di squadra dopo i 26 di Shaq e i 26 di Penny Hardaway, ed ha la possibilità di chiuderla la gara perché sul più 3 con poco meno di 9 secondi dalla fine basta 1 su 2 dalla lunetta per andare a più 4, avere un possesso di vantaggio e regalare gara 1 a Orlando, che se la sta giocando in casa nella bolgia dell'Orlando Arena. Cosa succede invece? Nick Anderson, pur giocatore come si direbbe con le palle, paglia entrambi i tiri liberi, ma non si arrende. Sul secondo errore si butta di gran foga al rimbalzo e recupera il rimbalzo, subisce un altro fallo. Quindi ha l'occasione per poter correggere il doppio errore precedente e chiudere definitivamente la partita. Io credo che in quel momento lì anche un pessimo tiratore di liberi come Shaquille O'Neal avrebbe fatto almeno 1 su 4 per decidere questa benedettissima gara 1. Nick Anderson tira il primo libero, Penny Hardaway, lo vedrete dai replay della partita, si volta dall'altra parte un po' come un portiere quando si batte un rigore decisivo dall'altro lato del campo. Nick Anderson però il primo dei 2 tiri liberi, il terzo consecutivo, lo sbaglia e dalla sua reazione, dalla sua espressione si capisce che sbaglierà anche il quarto. Effettivamente Nick the Brick da quel momento sarà il soprannome che si porterà dietro probabilmente per la vita. Però comunque, rimbalzo Houston, time out, Orlando è sempre a più 3, c'è comunque pochissimi secondi da giocare. Si va dall'altra parte, Kenny Smith segna la sua 7ª tripla in una maniera tra l'altro incredibile, tra l'altro bizzarro pensare che Orlando non abbia fatto un fallo sulla rimessa per mandare in lunetta Kenny Smith e quindi evitare che potesse segnare quella tripla che in realtà ha segnato. Si va all'overtime, Nick Anderson va in stato catatonico, ci resterà in questo stato per gran parte della sua carriera a venire. Le sue percentuali ai tiri liberi scenderanno in una maniera pazzesca, seppur che non era mai stato un grandissimo tiratore di liberi. La sua carriera subirà un bel tracollo, si parla anche di un principio di depressione personale per questo giocatore, che comunque nella sua vita ne aveva già passate tante, proprio da un punto di vista umano e storico personale. Si va comunque ai supplementari, si arriva punto a punto, ultima azione, mano a Houston, Clyde Drexler penetra, sbaglia il tiro, scade il tempo, Hakeem Olajuwon tap in vincente, finisce così 120-118 e Houston da questa partita in poi vincerà le 3 seguenti e si riconfermerà contro ogni tipo di pronostico campione NBA per il secondo anno consecutivo. Nick Anderson in questa maniera resterà e passerà alla storia come, abbiamo già detto, lo ripetiamo, Nick the Brick, e sarà stato probabilmente l'uomo decisivo indiretto per giustificare questo successo. Ci sarebbe tanto da raccontare su questa partita, tanto ancora. In realtà il tempo a nostra disposizione è poco, appena sforato i 15 minuti, per cui vi lascio qui. Mi auguro che questa prima puntata di NBA Week sia stata di vostro gradimento, mi auguro di essere stato in grado di condensare tutto quello che pensavo di voler dire nel tempo a disposizione, di non avervi annoiato. Vi do l'appuntamento a risentirci per la settimana prossima, sempre sulle frequenze web, e quindi grazie anche al podcasting e allo streaming di Radio Big World, e anche in aggiunta sul YouTube di Belli 13. Grazie, grazie, grazie a tutti per l'attenzione. Alla prossima settimana.